Il punto di Stefano Folli. L'ultima cosa di cui l'Italia avrebbe bisogno in questo momento sono ulteriori aspre tensioni politiche, e invece è quello che bisogna aspettarsi almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica. Da un lato Grillo che teme di perdere il controllo sui propri gruppi parlamentari e vuole evitare di farsi fagocitare dalle astuzie di Bersani. Dall'altro Berlusconi che vede proprio nella corsa al Quirinale la grande occasione di contare e anzi di imporre le proprie condizioni al centro-sinistra. Insomma, ci sono tutte le premesse per un periodo abbastanza lungo, ricco di strappi e colpi bassi. E tutto questo avrà ripercussioni certo non positive nel difficile lavoro a cui si accinge Napolitano nella settimana che vedrà il conferimento dell'incarico di formare il governo.